Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. I've been holding it since they put the dome over the town. You can wait. A lot of people work really hard in this film, and all they ask is for you to memorize their names. Well, I want to make sure no animals were harmed during the filming of this movie. Phew. Okay. Woo, floor popcorn. Wait. It looks like Maggie has something to say. Oh my god, her first word! Sequel? I don't have a spirit. È la seconda parte di Eclettica che vi sta facendo fare un giro per il mondo. Prima Islanda, poi Germania e adesso sarà Italia. È la seconda parte di Eclettica come tutti i giorni, tra le 19 e le 20 con Giulio Caperdoni. Islanda, in quanto ci siamo ascoltati Singapore Sling, band che io ho scoperto solo da poche settimane a questa parte, da quando ve ne ho parlato per la prima volta e poi da quella volta ho trasmesso sempre il solito pezzo. Quest'oggi ho voluto cambiare, sempre andando a ripescare negli archivi, perché sono tutte canzoni di qualche anno fa della formazione islandese, dal suono non islandese, perlomeno dal suono non ritenuto come standard islandese, visto che all'Islanda tipicamente associamo altri suoni. Il pezzo di quest'oggi era Overdrive. Poi in seguito è stata la volta dei Wild Birds and Peace Drums, duo che si basa solo su batteria e voce, che proviene dalla Germania, Doubt Hope, il pezzo che si è appena chiuso, per passare a Ferrara, da cui provengono gli Sport Club, che si sono formati nel 2005 ma stanno per arrivare adesso, a marzo 2008, al disco d'esordio che uscirà per Baraonda Records. Una formazione, quella degli Sport Club, che vede al suo interno componenti di altre band che hanno deciso di iniziare appunto una nuova avventura. La loro musica è una musica che unisce strumenti acustici come il contrabbasso, la fisarmonica, la tromba e la chitarra acustica a sonorità elettroniche create con sintetizzatori, campionatori e computer. Il brano che io ho scelto è una cover stravolta rispetto all'originale, rallentata rispetto all'originale. È una cover degli Husker Du intitolata Never Talking to You Again. Allorché a scuola la conversazione cadde sulla guerra russo-giapponese, Kyokai Matsugai domandò a Shigekuni Honda, il suo più caro amico, che cosa riuscisse a ricordarsene. I ricordi di Shigukeni erano vaghi. Rammentava a stento che una volta lo avevano portato davanti al cancello d'ingresso per osservare un corteo che sfilava alla luce delle torce. L'anno della fine della guerra avevano entrambi 11 anni e, a giudizio di Kyokai, avrebbero dovuto conservarne un ricordo un po' più netto. I loro compagni di classe, che parlavano disinvoltamente della guerra in tono da conoscitori, in genere arricchivano le loro nebulose sensazioni mnemoniche per mezzo di episodi attinti ai discorsi degli adulti. Questo era l'incipit di Neve di primavera di Yukio Mishima. Thank you. Una delle canzoni simbolo di questa stagione di Eclettica, Sweet Love for Planet Earth, erano loro i Fuck Buttons. E chiudiamo con un album che ci ascoltavamo già 2 anni fa. Ora vi spiego perché lo riprendiamo in mano. Perché in effetti prendiamo sì una canzone da quell'album, ma appena pubblicata in una veste diversa. Probabilmente ve lo ricordate, l'album si chiamava To Find Me Gone ed era l'album di Andy Kebik, collaboratore di Devendra Banhart, ma che si è presentato sul mercato con lo pseudonimo di Vetiver. Ora ha ripreso 2 canzoni da quell'album, You Made Me Blue e Been So Long, e le ha date in mano ad un suo amico Thon Monahan, in modo che le remixasse. Noi ci ascoltiamo la versione Neighbors Remix di You May Be Blue, ma prima di farvela ascoltare vi annuncio che a maggio, ci sarà un nuovo album da parte di Vetiver. Sarà un album solo di cover intitolato Thing of the Past. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 17, volume numero 4. Indice, Atlas Sound, Sean Alice Group, Harrisons, The Vodka, The Box, OK, Singapore Sling, Wild Birds and Peace Drums, Sport Club, Fat Buttons, Vetiver. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.